24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 16 minuti e 47 secondi di questo lunedì 1 giugno inizia la terza parte di 24 Mattino. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Ciao Maria. Buongiorno, buongiorno, ciao Simone, buon inizio di settimana a te e buon inizio di settimana ai nostri ascoltatori, ai quali voglio raccontare questo episodio che dà un po' l'idea anche di come si fanno le guerre politiche negli altri paesi, perché avete parlato giustamente di quello che sta incendiando gli Stati Uniti e invece in Gran Bretagna, così ci riferisce il Daily Telegraph, si stanno scannando ancora una volta per una questione di corna e di lockdown, perché dopo il caso del portavoce potentissimo di Boris Johnson, sotto accusa perché andava a trovare, poverino, il figlio uscendo dalle regole del lockdown, adesso la replica, diciamo, dei Tories contro i Labour riguarda una capogruppo del partito dei Labour, quindi avverso a quello di Boris Johnson, che è stata costretta a dimettersi dal ruolo di capogruppo perché era andata a trovare il suo amante, un uomo sposato, sfuggendo alle regole del lockdown. Quindi un colpo ai Labour dopo il colpo arrivato sullo stesso tema a Boris Johnson e al suo portavoce. Insomma, ogni paese ha, come dire, i suoi metodi di battaglia politica. Questi sembrano, diciamo, decisamente meno preoccupanti e furibondi di quelli che sono in atto ora negli Stati Uniti. Sì, sì, e anche di quelli che si stanno per svolgere in Italia. Domani ci saranno un po' di manifestazioni. Maria, allora, prima di andare al nostro primo ospite, che sarà Luca Richelli, che è componente del Comitato Tecnico Scientifico e che ci aiuterà un po' a capire anche queste dichiarazioni di Zangrillo che tanto stanno facendo discutere. Senti, prima in rassegna stampa mi era sfuggito e ne voglio dar conto agli ascoltatori perché la trovo meravigliosa. L'intervista del giorno è senza dubbio quella che Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera, pagina 9, fa con il generale Pappalardo dopo la manifestazione. Tutte le proteste, la manifestazione di sabato, i gilet arancioni, eccetera, sì, eccetera. Allora, c'è questo passaggio, guarda, allora, dobbiamo cominciare a stamparci una nuova moneta. Pensi che pure Draghi mi ha detto che è d'accordo? Non ci credo, dice Roncone. Giuro, l'ho incontrato la scorsa estate a Città della Pieve. Lo vedo in un vicolo, gli vado incontro e gli chiedo: posso cominciare a far stampare nuova moneta? Allora lui mi guarda serio e mi risponde: sì, sì, certo che può. Draghi ha capito che io non sono un politicante, ma un artista delle idee e della musica. Del resto, lei lo sa, vero? Cosa? No, dico, io sono uno dei più grandi musicisti del mondo. Le mie opere sono state eseguite in luoghi dove avevano accettato solo Mozart e Beethoven. In Vaticano sono considerato un genio illuminato da Dio. Anzi, le anticipo che la segreteria del presidente Trump mi ha chiesto di comporre qualcosa in suo onore. Però, siamo davvero al vaudeville. Io credo che il fatto che questo personaggio rispunti ogni tanto ci dovrebbe far riflettere. Decisamente. Primo, decisamente. Su... come si diceva un tempo, ma chi lo manda? E secondo, un tempo c'erano il diritto di parola e uno saliva su un palco a Londra e diceva la qualunque, e questo non significava che mezze pagine dei giornali fossero dedicate a quello che diceva. Invece, prendiamo sul serio pure questi soggetti. Vedi che ovviamente non è presa sul serio. E invece andiamo insomma. Allora, veniamo alle cose serie invece, alla situazione epidemiologica di questo paese, e siamo Luca Richelli, che è componente del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile, è ordinario di malattie dell'apparato respiratorio all'Università Cattolica del Sacro Cuore ed è anche presidente della Società Italiana di Pneumologia. Richelli, buongiorno e benvenuto, eccoci qua. Buongiorno, grazie. Buongiorno, senta. Ma lei che cosa pensa dell'uscita del primario di San Raffaele, il suo collega Zangrillo, che sostiene che dal punto di vista clinico il virus non esiste più? Ci sono state ovviamente molte relazioni, anche reazioni, anche la sua che ha invitato alla prudenza. Ma fa bene avere, come dire, ogni tanto qualche competente, qualche scienziato, come li chiamiamo noi, che si alza e fa queste dichiarazioni a effetto? Guardi, questa è una situazione talmente nuova ed è stata una situazione talmente drammatica che io credo che le dichiarazioni ad effetto andrebbero evitate, perché noi sappiamo che effetti appunto potrebbero avere. Cioè, quello che ha detto il professor Pengrillo è una cosa che è nei numeri e nei dati ormai da molte settimane. Non so se lei ricorda quando già la Protezione Civile nelle conferenze stampa delle 18 si vedeva al calo dei numeri dei pazienti che andavano in terapia intensiva o al calo dei numeri dei pazienti che venivano ricoverati, che è una tendenza che abbiamo visto dopo il lockdown stabilizzarsi. Quindi il professor Zangrillo, con questo clinicamente non esiste più, ha fotografato una situazione che nei fatti da molte settimane e che tra l'altro, adesso non faccio l'epidemiologo, ma immagino sia esattamente quello che si voleva ottenere con le misure di distanziamento così drastiche e così prolungate che abbiamo avuto nel nostro paese. Ora, purtroppo questa frase, estrapolata dal contesto clinico, dal contesto tecnico, può dire alla persona, diciamo, che non ha queste capacità di interpretazione, il virus non esiste più. Cioè, se uno toglie quel clinicamente, questo è rischioso perché? Perché questo farebbe sì che immediatamente una persona, diciamo così, normale, dice il virus non esiste più, vuol dire che non mi distanzio più, vuol dire che non mi lavo più le mani, vuol dire che possiamo ricominciare a fare tutto quello che facevamo prima, e quindi non capisce più l'utilità di quello che ha fatto, cosa ancora più pericolosa, e di quello che ancora sta facendo. Quindi è lì che io sinceramente mi sono sentito di intervenire, perché in effetti trovandosi con un virus così nuovo, una situazione così complicata che abbiamo avuto, e avendo intorno a noi anche dei paesi che hanno delle situazioni epidemiologiche ancora preoccupanti, andare a rischiare per una frase mi sembra un po', diciamo, una mancanza di cautela. Richeldi, cosa vuol dire tecnicamente? Esiste questa cosa della carica virale che si riduce? Perché abbia pazienza, noi abbiamo bisogno a volte anche delle basi. Esiste questa cosa? Cioè, è possibile oppure no? Guardi, è certamente possibile, perché esiste praticamente in tutte le malattie infettive. Tra l'altro, ribadisco ancora una volta, la riduzione della carica virale e della circolazione del virus è esattamente quello, è esattamente il motivo per cui siamo stati chiusi, sigillati in casa per delle settimane. Cioè, mi scusi, Riccardi, giusto per essere più chiari, è un comportamento del virus o è l'effetto delle misure di lockdown? Cioè, esiste come comportamento del virus la riduzione della carica virale oppure no? No, io non credo che esista, è una cosa sinceramente della quale io non sono a conoscenza e non credo che sia stata dimostrata e non sia stata pubblicata. Quello che vedo è una coincidenza temporale tra le misure di lockdown, la riduzione del numero dei casi, che è da imputare alla riduzione della circolazione del virus. Cioè, questo vedo e questo mi convince molto. È bene dire alle persone che questo non sarebbe accaduto se non avessimo fatto quelle misure di lockdown, perché vediamo altri paesi in cui purtroppo le misure di lockdown o non sono state fatte o non possono essere fatte, non si sono volute fare, in cui la situazione è completamente diversa. Quindi questo non è un comportamento del virus spontaneo, autonomo, che a un certo punto ha detto io qua adesso smetto di circolare o riduco la mia carica infettante. No, quello che è successo che a seguito di quelle misure si è ridotta quella carica infettante e quindi sono ridotte le forme cliniche, era esattamente quello che volevamo. Il problema è che le circolazioni virali sono dinamiche, cioè crescono e diminuiscono in relazione a svariati, diciamo, situazioni ambientali. Ricordiamoci che ancora noi oggi abbiamo le persone che circolano con le mascherine, si distanziano, gli eventi di massa sono ancora proibiti, abbiamo le scuole chiuse, cioè abbiamo una serie di provvedimenti che riducono e impediscono la circolazione del virus. Ora, se noi di colpo diciamo che quelli non servono, o che addirittura, ancora più grave a mio parere, instilliamo il dubbio che quelli siano stati inutili, ecco, io lì vedrei un pericolo. La fase 2 o 3, dottor Richeldi, è legata anche alla possibilità di muoversi in sicurezza. Tutti noi stiamo leggendo di vacanze, ma io penso che tanta gente quest'estate in vacanza non ci andrà e lavorerà, e però dovrà proprio muoversi anche per lavoro. Abbiamo parlato spesso qui a 24 Mattino di passaporto sanitario, l'abbiamo fatto anche con il presidente della regione Sardegna. Le chiedo, c'è un modo per tenere sotto controllo gli spostamenti, visto che ora anche i confini si apriranno e insomma la gente almeno dentro Schengen potrà circolare liberamente? E poi da domani, dal 2 giugno, dovrebbe essere in funzione l'app Immuni. Lei sa quanto, che grado, diciamo, di affidabilità avrà? Sì, allora spostamenti intraregionali sono ovviamente consentiti da qualche tempo, spostamenti interregionali credo che il governo a un certo punto li consentirà. Ora, perché questo? Questo perché, appunto, quello che dicevamo prima, perché la riduzione della circolazione del virus rende meno pericoloso fare circolare persone da zone in cui il virus è più presente a zone in cui il virus è meno presente. Questa è chiaramente una scelta che a mio parere deve essere una scelta legata anche ad altre dimensioni, alla dimensione economica, alla dimensione psicosociale che c'è nella nostra società, però è una scelta che credo che sia, possa essere anche supportata da quello che appunto ieri il professor Zangrillo, in maniera un pochino così vocale, diceva che nei nostri ospedali la pressione sanitaria si è veramente ridotta. Quindi questo potrebbe rendere anche gli spostamenti tra regioni più semplici e meno pericolosi. La questione del passaporto sanitario è secondo me proprio mal posta da un punto di vista semantico iniziale, perché è proprio un concetto sbagliato. Il passaporto sanitario si utilizza per le vaccinazioni. Quindi ci sono alcuni paesi che richiedono di andare di essere vaccinati per alcune malattie prima di entrare in quei paesi, quindi è un concetto completamente diverso, non c'entra niente con la sierologia o niente con i tamponi virologici. Quindi a mio parere è proprio un discorso che sarebbe da abbandonare completamente, perché non ha senso. Per quanto riguarda l'app Immuni, io ovviamente nessuno di noi ancora l'ha vista, ma sappiamo quali sono i presupposti sui quali l'app è stata studiata, cioè quello di dare un ulteriore contributo al tracciamento dei contatti, soprattutto in una fase in cui i casi sono più sporadici o stanno calando. Ora, non ho dubbi che tecnicamente l'app funzionerà. Questo credo che dobbiamo darlo per scontato, perché sono settimane che si stanno lavorando e sono certo che l'app funzionerà. Quello che non sappiamo, quello che è un po' un punto di domanda, è quante persone la utilizzeranno, perché ovviamente... È quello il grande tema, visto che è volontaria non sai quante persone la utilizzeranno. D'altra parte non c'era alternativa, non credo si potesse rendere obbligatoria. Certo. Professor Richeldi, allora abbiamo imparato in queste settimane a capir bene, no, il fatto che ci sono i limiti della politica e i limiti del comitato tecnico scientifico, ossia la politica a volte prende delle decisioni che possono anche essere non condivise dal comitato tecnico scientifico, e in certi casi è anche giusto che sia così. Dunque la voglio portare sulla riapertura di tutte le regioni, del passaggio tra tutte le regioni. Secondo lei era giusto che riaprire anche la Lombardia, o una settimana in più, due settimane in più sarebbero state più salutari? Guardi, io mi sembra di in questa esperienza, che è stata un'esperienza veramente per certi versi drammatica e anche molto nuova, mi sembra di poter dire che la componente tecnica o tecnico-scientifica nella presa di queste decisioni è una componente, uno dei fattori, che è tanto più importante e tanto più stringente quanto più la situazione epidemiologica è grave e drammatica. Ovvero nelle prime fasi, devo dire che ho visto nel Ministro della Salute e in tutto il governo un'attenzione massima per quello che i nostri epidemiologi, i nostri virologi dicevano, con l'allerta che davano e le misure che sono state date. In questo momento devo dire la verità che a mio parere, però sottolineo il fatto che io mi occupo di polmoni, quindi non sono proprio un esperto del campo, non credo che coi dati che abbiamo una settimana più, una settimana in meno, faccia una differenza drammatica. Cosa fa una differenza, a mio parere? Il fatto che ci sia in piedi un sistema di tracciamento e di sorveglianza efficace ed affidabile. E qui, anche qui ci sono state, nelle settimane scorse, nei giorni scorsi, qualche polemica. Mi sembra di capire che il tracciamento che è stato messo in piedi dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute sia in questo momento veramente affidabile. Può darsi che non sia accurato al 100%, come in genere niente è accurato al 100% in campo medico-scientifico, però credo che la fotografia che abbiamo delle regioni in questo momento ci dica veramente come stanno le regioni. Quello è il dato più importante, perché quello è il dato che eventualmente consentirebbe al governo di tornare sui propri passi. Quindi riaprire anche la Lombardia è stato giusto, dice lei, Richeldi? Io credo, sostanzialmente credo di sì, perché mi sembra di capire che i dati che l'Istituto Superiore di Sanità vede siano dati che vanno in quella direzione. Tanto è sempre il fatto che ricordiamoci che noi abbiamo uno stato di emergenza che dura fino almeno al 31 di luglio, e che sotto questa situazione è sempre possibile tornare indietro sui propri passi, ovviamente tenendo sempre un occhio su quello che succede a livello regionale e a livello territoriale. Quello è il cardine di tutto, a mio parere. Poi, quando le decisioni vengono prese sulla base di un numero che viene rilevato in maniera affidabile, io personalmente mi sento abbastanza tranquillo. Senta, dottor Richeldi, per l'autunno ci sono punti di vista anche qui molto diversi. Ogni tanto io penso che bisognerebbe silenziarli un po' i virologi, perché hanno sempre, come dire, posizioni molto eclatanti per fare notizie, ma spesso in contraddizione. La cosa che ci interessa capire è, siccome di vaccino nessuno parla più, nessuno dice sarà pronto a settembre, è vero o non è vero che i farmaci che vengono usati bloccano gli effetti almeno più pesanti, più drammatici del virus, e quindi se ci sarà, speriamo di no, una seconda ondata, comunque il sistema sanitario italiano sarà più pronto a fronteggiarlo ricorrendo ai farmaci, anche se non c'è ancora il vaccino? Sì, dunque il problema di una seconda ondata in periodo autunnale e invernale è relativo a due fattori. Il primo fattore è che certamente avremo, come abbiamo tutti gli anni, un incremento dei casi di patologia prevalentemente respiratoria dovuta ai virus respiratori stagionali, principalmente quello dell'influenza. E qui sottolineo che il Ministero darà presto il via ad un'ulteriore campagna di sensibilizzazione sulla vaccinazione antinfluenzale, che quest'anno sarà ancora più importante degli altri anni. Perché se avremo meno persone che vengono in ospedale con sintomi soprattutto gravi da infezione da influenza, questo da una parte toglierà pressione sul sistema sanitario e dall'altra ci impedirà di avere questi quadri che possono essere anche scambiati con quadri da coronavirus. Vaccino, nessuno tra le persone diciamo più affidabili ne ha mai parlato per settembre. I più diciamo ottimisti parlano del 2021, di metà 2021, di fine 2021, quindi scordiamoci la questione del vaccino. Farmaci, non abbiamo ancora un farmaco che sia registrato, cioè che abbia provato in maniera inequivocabile di essere sicuro ed efficace per il trattamento di questo coronavirus. Però cosa abbiamo? Abbiamo l'esperienza che abbiamo fatto, non solo noi, ovviamente italiani, che sono stati però insomma i primi sul campo in Europa a sperimentare purtroppo questa malattia, ma nel mondo. Quindi ci sono molti farmaci e protocolli che hanno dimostrato di essere più sicuri e più efficaci di quell'approccio empirico che è stato ovviamente necessariamente e inevitabilmente utilizzato nella prima fase. Quindi, pur se non abbiamo ancora un farmaco specifico e un farmaco efficace, certamente i protocolli che utilizzeremo in caso di una seconda ondata saranno più sicuri e più efficaci di quelli che sono stati utilizzati, e certamente il fatto di sapere che questa seconda ondata ci possa essere ci mantiene più preparati. Se ci sarà o non ci sarà, diciamo, questo è ovviamente una previsione futura che ha tutti i limiti. A me personalmente pare che chi dice che ci si possa prevedere una seconda ondata, ma che questa seconda ondata sarà più contenuta sia da un punto epidemiologico che da un punto di vista dell'impatto sui servizi sanitari, mi sembra un pochino diciamo l'opinione più affidabile. Certamente il Servizio Sanitario Nazionale si sta preparando per essere comunque non preso di sorpresa. Grazie. Luca Richeldi, componente del Comitato Tecnico Scientifico Ordinario di Malattie dell'Apparato Respiratorio dell'Università Cattolica, presidente della Società Italiana di Pneumologia. Buona giornata, Richeldi, e grazie. Buon lavoro, naturalmente. Buon lavoro. Una pausa, poi ci ritroviamo e parliamo con Paolo Gentiloni, il commissario europeo agli affari economici e monetari. State ascoltando un programma offerto da centrosoftware.com, il miglior ERP per la tua impresa. Mattino. Buongiorno a Paolo Gentiloni, commissario europeo agli affari economici e monetari. Eccoci qua, Gentiloni. Maria, prego. Buongiorno. Buongiorno. Commissario, il punto sul quale c'è ancora molta incertezza e che riguarda anche le scelte del governo, non soltanto l'Europa, è quello che si riferisce al MES. Sia Confindustria che i costruttori di ANCE e anche l'ABI hanno rivolto un appello al governo per chiedere di utilizzare tutte le risorse messe a disposizione dall'Europa, MES compreso, e non farlo, dicono, sarebbe una grave irresponsabilità nei confronti del paese. Lei, Gentiloni, aggiungerebbe la sua firma a questo appello? Ma io non la posso aggiungere, nel senso che non è il mio mestiere in questo momento. Certamente è una richiesta ragionevole, perché di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del primo pacchetto di misure decise a livello europeo, che è un pacchetto di prestiti. E sono prestiti che arrivano attraverso la Banca Europea degli Investimenti per quanto riguarda le piccole e medie imprese, che arrivano direttamente attraverso la Commissione per quanto riguarderà, perché è operativo tra qualche settimana, questo meccanismo che aiuta i sistemi tipo cassa integrazione, che abbiamo chiamato SURE, e poi c'è un pacchetto che aiuta la spesa sanitaria diretta e indiretta, che arriva attraverso il MES. Questi tre prestiti sono ovviamente particolarmente vantaggiosi per paesi che hanno normalmente un tasso di interesse più alto, no? Quindi a un paese come l'Italia conviene avere questi tre tipi di prestiti più che agli altri paesi, perché, diciamo la verità, un paese come la Germania, per fare un esempio, se ha bisogno di farsi prestare dei soldi per sostenere le spese sanitarie, ha una possibilità di farseli prestare sui mercati finanziari con dei tassi di interesse addirittura migliori, perché sono negativi, di quelli che il MES offre e che sono vicini a zero. Però invece per l'Italia fa una certa differenza, quindi certamente sono tutti strumenti utili. La Commissione ha lavorato molto per togliere a questi strumenti le condizionalità che all'inizio c'erano. E c'erano perché in particolare questo meccanismo europeo di stabilità, che così si chiama spesso anche fondo salva stati, era stato concepito per tutta un'altra finalità, cioè paesi in difficoltà che chiedevano aiuto, Grecia, Spagna, Portogallo, e abbiamo dovuto modificare molte regole attuative per evitare queste condizionalità. Oggi ecco, vede, Gentiloni, mi scusi, uno dei sospetti che vengono agitati è: ah, ma perché noi come Italia lo dovremmo prendere il MES, mentre perfino la Spagna e la Grecia non lo prendono, per non parlare della Francia? Ma un paese come la Francia ha una condizione dal punto di vista dei tassi di interesse che non è identica a quella italiana. Per quanto riguarda gli altri due paesi che lei ha citato, valgono più o meno le stesse considerazioni che valgono per l'Italia. Poi vedremo se il governo greco e il governo spagnolo lo utilizzeranno o meno. Senta, io non ho informazioni che non lo utilizzino e neanche che abbiano già fatto richiesta. Teniamo conto che questo strumento è disponibile da 10 giorni, non è che sta lì da mesi in attesa. Senta, in questi giorni si parla molto del tema dell'occasione dell'Italia, l'ha fatto anche lei in un'intervista nel fine settimana con il Corriere della Sera. Il punto è un po' questo, si presenta una situazione potenzialmente irripetibile, nel senso che è venuto a cadere, per l'Italia sono venuti a cadere due vincoli esterni fondamentali, ossia il patto di stabilità da una parte e i mercati, perché c'è la BCE che sta comprando a manetta, e dobbiamo dirlo, sta comprando soprattutto Italia, e quindi ci tiene i tassi relativamente bassi. Quindi possibilità di fare più deficit, maggiore indebitamento e via dicendo. Dall'altra parte una serie di strumenti europei che si stanno attivando, tra cui, poi ne parleremo, insomma, di questo recovery fund e del dove può andare a finire. Insomma, l'impressione generale che leggo da un po' di dichiarazioni è che l'Italia stia rischiando già di sprecare questa occasione. Lei che cosa dice? Ma per dire che la stia sprecando sembra un po' presto. Dal punto di vista dei tempi, adesso questo, diciamo, il primo pacchetto è quello di cui abbiamo parlato adesso, sanità, piccole e medie imprese, cassa integrazione. Qui ci sono prestiti vantaggiosi per un paese come il nostro, e sono attivabili in queste settimane. Bene. Sono un pacchetto di 500 miliardi, quindi una cosa significativa. Il secondo pacchetto, che è invece di 750 miliardi e che contiene tra l'altro 500 miliardi di sussidi a fondo perduto, ha bisogno ancora di un'intesa tra i governi, perché questa è la proposta nostra della Commissione, e io confido che l'intesa sarà raggiunta e poi dalla ratifica dei parlamenti. Quindi entrerà in funzione, tranne alcune piccole cose anticipate quest'anno, dal 1 gennaio dell'anno prossimo. Quindi l'occasione non è sprecata, perché c'è molto tempo per lavorarci. Io segnalo all'Italia, come a tutti i paesi dell'Unione, che questa occasione dovrebbe essere utilizzata per affrontare obiettivi sia di ciascun paese e sia a livello europeo, come posso dire, di una certa importanza. Abbiamo la transizione ambientale, abbiamo da investire sull'innovazione tecnologica e digitale, abbiamo da risolvere in molti paesi problemi così dire antichi. Ecco, questa è l'occasione per avere delle risorse in questa direzione, non per spartagliare risorse che peraltro in molti casi i governi nazionali hanno già mobilitato nelle settimane scorse. Quindi non si tratta di aggiungere qualcosina alle cose già decise dai governi nazionali, si tratta di fare una cosa indirizzata per una volta un po' evitare al futuro, mille... ne abbiamo un gran bisogno. Sì, evitare mille rivoli in sostanza, dice lei. Sì, evitare mille rivoli, evitare misure che non abbiano un profilo di investimento, di priorità, insomma già lavorarci, anche perché la Commissione europea poi lascia ai paesi la responsabilità di fare queste proposte, ne discuterà ovviamente con i paesi e poi vorrà verificare che gli obiettivi indicati, i tempi indicati siano rispettati, come sempre avviene con i quattrini europei. E quindi non va presa alla leggera, ecco. È proprio questo, cioè, lo dico, no? Una certa diffidenza sulla capacità italiana di usare e usare bene in modo efficace i fondi europei. Io sono sempre molto molto sorpresa quando scopro che per esempio nel settore dell'istruzione 800 milioni di euro che erano arrivati dall'Europa non sono stati spesi perché non eravamo capaci di presentare dei piani. Enrico Letta qualche giorno fa in un'intervista ha buttato lì un'ipotesi suggestiva: l'Unione Europea metta direttamente i soldi nelle tasche dei cittadini e delle imprese. È un sogno irrealizzabile, Gentiloni, nel senso che mai i singoli governi dei singoli stati rinunceranno ovviamente alla possibilità di gestire questa ingente quantità di denaro. È così? Ma per certi versi già avviene che l'Unione Europea attraverso alcuni strumenti intervenga direttamente a favore delle imprese. Lo fa, per esempio, una delle misure di cui abbiamo appena parlato, fa capo alla Banca Europea degli Investimenti e si rivolge direttamente, può essere attivata direttamente da progetti mobilitati dalle imprese. Ci sono diverse risorse di investimento che vengono attivate direttamente da progetti da parte delle imprese. Questo grande piano invece di rinascita, di ripresa, quello diciamo che costituisce il grosso di questi 750 miliardi, prevede inevitabilmente che ci siano dei piani nazionali, perché la Commissione europea stessa non sarebbe in grado di decidere dove indirizzare un ammontare così rilevante di risorse. Però quello che la Commissione può fare e deve fare è far sì che queste risorse vengano utilizzate positivamente, anche perché è la prima volta che la politica economica europea ha, per così dire, un volume di fuoco significativo e non si basa solo su tetti, regole, sorveglianza e procedure di infrazione. E quindi, essendo la prima volta, questo volume di fuoco significativo lo deve usare veramente bene. Si è aperto un piccolo dibattito, diciamo un po', forse un po' alto se vogliamo, sul fatto che, adesso lo spieghiamo rapidamente agli ascoltatori, sul fatto che questa decisione del Recovery Fund, la partenza del Recovery Fund, sia il momento hamiltoniano dell'Europa. Cosa vuol dire? Si parla di Alexander Hamilton, fu segretario al Tesoro americano, siamo alla fine dell'Ottocento, e fu quello che mise di fatto in condivisione il debito di 13 stati. Di fatto, fondando dal punto di vista economico, è considerato uno dei padri della patria americani, fondando dal punto di vista economico gli Stati Uniti. Gentiloni, è diciamo il primo passo questo Recovery Fund per una vera federazione europea? Ma io culturalmente me lo auguro, però dobbiamo anche guardare le cose come sono, quindi con un certo realismo. Io direi che al momento è un passo in avanti straordinario verso un obiettivo più limitato. L'obiettivo più limitato è quello di dotare l'Unione Europea di una politica economica che abbia delle risorse a disposizione, perché sembra paradossale, forse chi ci ascolta può essere stupito anche da questa constatazione, ma attualmente noi abbiamo un edificio in cui c'è, almeno per 19 dei 27 paesi, una moneta unica, c'è quindi una politica monetaria comune, almeno per questi 19 paesi, ma quanto alle politiche di bilancio, quanto alla politica economica, ci sono soltanto dei meccanismi di coordinamento, di sorveglianza. Invece, molto coraggiosamente, questa volta si è accettata l'idea che ci siano delle risorse, e anche delle risorse a fondo perduto, il che vuol dire che non stiamo mettendo insieme il debito pregresso, quello degli scorsi 10-20 anni, ma stiamo mettendo insieme risorse economiche per affrontare la sfida dei prossimi anni. Se poi questo sarà il primo passo in una direzione hamiltoniana, vedremo. Io non vorrei però che far riferimento a questo accentui ancora di più le preoccupazioni che ci sono da parte di quei paesi che non vogliono certo andare in una direzione verso uno Stato federale. Qui stiamo facendo un passo, diciamo, molto molto rilevante, ma più limitato che non un passo che vada nella direzione di uno Stato federale, ecco. Commissario Gentiloni, un altro elemento del futuro dell'Europa riguarda le fusioni. Si dice che se l'Europa vorrà essere davvero un campione globale dovrà avere poche banche di grandi proporzioni e quindi europee, poche grandi assicurazioni. A questo proposito in Italia è un dibattito anche questo molto di nicchia e non tutti i giornali ne parlano, però si discute delle grandi manovre attorno a generali. Le cito quanto scrive Repubblica oggi: la prospettiva di un'operazione di fusione in Europa finirebbe per somigliare a una vendita, visto che le generali capitalizzano circa la metà della francese AXA e un terzo di Allianz. E aggiunge sempre Repubblica: non sarebbe il caso di preoccuparsi anche degli assetti della banca d'affari cioè Mediobanca, che ha tra le sue partecipazioni la maggiore compagnia italiana che potrebbe finire sotto una finanziaria lussemburghese, cioè la Delfin di Del Vecchio. Sono tutte questioni che riguardano anche il futuro dell'Europa, la strada che si vorrà scegliere, quella di grandi agglomerati europei oppure la difesa delle realtà dei singoli paesi. Ma bisogna trovare un punto di equilibrio e certamente non è facile. Ci sono alcuni settori nei quali, senza alcun dubbio, settori strategici, senza alcun dubbio l'Unione Europea deve sostenere imprese che possano crescere e avere un ruolo anche a livello globale. Penso ad esempio al settore digitale. Uno potrebbe dire, vabbè, ma ormai il treno è stato perso, nel senso che i giganti sono tutti stranieri, americani o cinesi, ed è vero fino a un certo punto, nel senso che i cambiamenti in questo settore sono così rapidi che ci sono nuove generazioni di tecnologie sulle quali ci sono imprese europee che potrebbero avere un ruolo forte a livello globale. E poi si potrebbe parlare della difesa e di altri settori. Detto questo, tuttavia, la forza del modello europeo è questo mercato unico con al proprio interno regole di concorrenza, di competitività, che lo hanno mantenuto molto forte, che ne hanno fatto la zona commerciale più forte del mondo. E quindi dobbiamo stare molto attenti che quando si fanno questi discorsi sui campioni europei non portino dietro un obiettivo comprensibile, soprattutto in alcuni settori strategici, effetti diversi, che sono effetti, diciamo così, monopolistici, di squilibrio dentro il mercato unico europeo e che svantaggerebbero alcuni paesi rispetto ad altri. Ecco, se questa è la conseguenza, questo discorso è un discorso da prendere molto con le molle. E d'altra parte abbiamo visto in queste settimane che quando abbiamo diciamo così sospeso le regole normali degli aiuti di Stato, sì, lasciando quindi molta più libertà ai paesi di venire in soccorso alle proprie imprese, abbiamo ricevuto come commissione domanda per 2.300 miliardi di aiuti in deroga alle regole sugli aiuti di Stato, e di questi 2.300 miliardi circa la metà sono venuti da richieste venute solo da un paese, la Germania, che vuol dire che il potere di bilancio diverso da paese a paese, se non ci sono regole del mercato unico che riequilibrano questi squilibri, può portare poi a una differenza tra i paesi molto forte, molto pericolosa. Molto forte e molto pericolosa. Dobbiamo veramente chiudere. Grazie Paolo Gentiloni, commissario europeo agli affari economici e monetari. Maria, noi domani non ci siamo, ci risentiamo lunedì alle 8:20 con te naturalmente e alle mercoledì, sì, ciao, vabbè. Grazie Gentiloni, buon 2 giugno, buon come se fosse domenica. Buon lavoro, sì, buon lavoro a Paolo Gentiloni, ci sentiamo mercoledì, ciao.